particolare la vogliamo dedicare a tutte le compagnie del liceo scientifico che spesso vengono falsamente accusate. E già che ci siamo, la dedichiamo anche a tutta la gente che fa queste false accuse, che spreca parole, caratteri di giornale. Sono tutte cavolate! Sentite la felicità! Sono felice, in camera mia, tutti quei poster mi trasmettono allegria, ma soprattutto le foto mie, che mi ricordano ciò che faccio in compagnia. Poi quando usciamo, noi ci incontriamo sugli scalini di un liceo piacentino. La gente passa, ci guarda strano, solo perché abbiamo una bottiglia in mano. Ma c'è qualcuno che non gli va, ma noi ce ne sbattiamo. Ascolta e pensa che noi ci mettiamo il cuore, che pesce e gatti ci fanno al matto, sono tutte balle a noi, non ce ne frega un cazzo. Ma c'è qualcuno che non gli va, ma noi ce ne sbattiamo. Qualcuno che non gli va, ma noi ce ne sbattiamo. Bello, bello. Grazie a tutti. Piace molto anche noi. Grazie.